Giacomo Agostini, lei è stato un grandissimo campione del motociclismo italiano. Che sensazioni ha di fronte a questo funerale di Simoncelli, che è veramente vissuto da tutta l'Italia, da tutto il mondo? Ma sì, effettivamente meraviglia anche a me, nel senso che le due ruote sono sempre state in secondo piano e quindi non erano viste tanto di buon occhio, però questo mi meraviglia molto. C'è tutto il mondo, ha fatto le condoglianze alla famiglia, io ho ricevuto messaggi che addirittura facevano condoglianze a me o da poi fare io alla famiglia, insomma una cosa che mi fa molto piacere e mi tocca. Probabilmente questo ragazzo non ci eravamo resi conto che era tanto amato, pur non avendo ancora vinto tutto, era sulla strada, giustamente era un grande campione e era tanto giovane, quindi avrebbe avuto tempo di dimostrare la sua capacità, e però nonostante questo ci siamo tutti sbalorditi dall'affetto e ci fa molto piacere che tutto il mondo si ricordi di Marco.